Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Di certe farfalle. Farfalle che in vecchiaia si lasciano cadere a terra e sbattono le ali fino a sfinirsi e morire, così da attirare su di sé l'attenzione dei predatori, distogliendola dagli esemplari più giovani. Ottavio Tondi, Memorie delle cose lette prima di dire m'addormento, appunto numero 387. La vita non cerca veramente il nuovo, il diverso, l'inaspettato. Tende alla somiglianza. Cerca ciò che può riconoscere, che ha già visto, sentito, annusato. Cerca il ritorno. Cerca uno specchio. Tale è la potenza che non sarebbe assurdo affermare che non scorgeremmo alcun senso nelle cose se queste cose non somigliassero ad altre cose. Nulla più delle parole somiglia alle cose che esse nominano. Eppure, cos'è in concreto una parola? Come quasi ogni vita umana, il destino di Tondi si compì per via di una somiglianza. Era infatti una notte di febbraio, quella in cui la sua carriera di lettore venne orrendamente interrotta sul ponte che scavalca il Tevere all'altezza di Piazza Trilussa. Una notte fredda, ma fino al calare del buio il sole aveva spadroneggiato, sicché in città si era goduto un tepore molto simile alla giornata di falsa primavera in cui Ottavio Tondi incontrò il giornalista del presente per l'intervista che gli portò fama, denaro, agiatezza e una specie di felicità. Questa somiglianza giocò un ruolo decisivo nell'incastrarsi degli eventi. Non fosse stato per essa, Tondi non si sarebbe mai trovato alle 4 del mattino a camminare sui San Pietrini di Ponte Sisto, leggendo Bruges la morta di George Rodenbach, il libro che per poco non gli costò la vita. Quel mattino, uscendo di casa, la somiglianza lo aveva assalito con una furia selvaggia. Solitamente Tondi era piuttosto impermeabile ai segnali del mondo esterno. Le sole cose in grado di scuoterlo nel profondo erano quelle che leggeva nei libri. Ma quel mattino non poté fare a meno di sentirsi travolto. La somiglianza lo portò al chiosco di Piazza Vittorio, dove si sedette in solitudine, pensando alla mattina dell'intervista e a ciò che ne era scaturito. In sostanza pensò al tempo, ai 13 anni che da allora erano volati come frecce. Era un quarantenne adesso. Aveva la stessa età che aveva suo padre il giorno in cui il Robivecchi si portò via i libri di sua madre. Anche questa era una somiglianza, e non da poco. Pensò infatti che soltanto il risentimento che provava nei confronti del padre lo avesse indotto a concedere quell'intervista. Non voleva farla, ma ne aveva bisogno per vendicarsi, per dimostrare al genitore che leggendo era possibile conquistare una gloria preclusa a un miserabile contabile preoccupato unicamente di escogitare stratagemmi per eludere il fisco. Col passare degli anni il risentimento si era estinto. Era con pietà che adesso pensava a suo padre. Con pietà e forse anche con una punta di rimorso nel cuore. Si era difatti convinto, non importa con quanta fondatezza, che l'intervista del presente avesse scavato tra loro un abisso letale. Dopo di allora suo padre aveva abbandonato ogni scrupolo morale. Gli stratagemmi per eludere il fisco divennero sempre più criminali, come pure i suoi assistiti. In capo a un paio di anni si ritrovò coinvolto in uno di quegli scandali immani che ciclicamente esplodono nell'affarismo della capitale. Fu prima indagato e poi arrestato. La stampa non gli perdonò nulla. Non meno inclemente si dimostrò il torbido ambiente nel quale aveva sempre sguazzato. Un mattino, Tondi padre venne trovato suicida nella cella e non si capì mai, o non si volle capire, se la testa infilata in un sacchetto di plastica fosse stata una sua scelta o un consiglio che dovette seguire. Tondifiglio pensava a che ne sarebbe stato di lui se si fosse piegato ai voleri del padre. Dello studio Tondi e dei beni che decenni di consulenze fiscali avevano portato alla famiglia non restava più nulla. Lo scandalo aprì una voragine di spese e debiti che risucchiò tutto. Si era a stento salvata la casa di Via dello Statuto e grazie all'intervista che aveva accettato di fare più per vendetta che per convinzione, ora l'ultimo degli Ottavio Tondi aveva comunque di che vivere dignitosamente. D'altro canto, se non l'avesse fatta, suo padre non avrebbe deragliato. Le cose sarebbero andate avanti come in passato e lui, non potendo certo campare di letture, avrebbe infine ceduto, si sarebbe laureato per dedicarsi all'impresa di famiglia, anche se probabilmente con un po' più di moralità del padre. Ma quest'ultima era soltanto un'ipotesi, un'idea che si era messo in testa per punirsi, per alimentare un senso di colpa. Lo scandalo sarebbe scoppiato comunque, intervista o no. E Tondi lo sapeva bene, anche se preferiva non ammetterlo apertamente. Comunque sia, qualunque fosse la verità delle cose, qualunque versione preferisse darsi dei fatti, una cosa era certa: il tempo era volato. Eppure, per via di quella primavera ingannevole, seduto al tavolino del chiosco di Piazza Vittorio, era per Tondi come non fosse passato nulla tra il mattino dell'intervista e l'uomo maturo di adesso. Si sentiva giovane nonostante tutto, forse persino vigoroso. Nell'osservare la strada che scendeva verso Santa Croce in Gerusalemme, giunse alla conclusione che fosse insensato consentire alla malinconia di prendere il sopravvento. Non è andata così male, in fondo, pensò. Il meglio deve ancora venire. Il futuro è adesso, addosso a me. Non gli capitavano spesso simili vampate di entusiasmo. Stabilì quindi che fosse il caso di festeggiare, di concedersi un po' di svago. Concedersi un po' di svago per lui significava chiamare Maddalena, ma per fare ciò dovette tornare a casa. Diversamente dal resto dell'umanità, non si era provvisto di un cellulare. «Vuoi che ti legga qualcosa?» gli domandò lei, riconoscendolo all'istante dalla voce, e siccome lo sentì indeciso, aggiunse: «Preferisci leggere tu?» «Non so, forse sì», disse lui. «Beh, pensaci. Puoi decidere anche all'ultimo o fare entrambe le cose, lo sai. Posso restare anche per cena?» «Certo. Porta qualcosa, però». Lui tentennò di nuovo. «Cosa vuoi che porti?» «Scherzavo, quello che ti pare, anche niente». Maddalena era una massaggiatrice. Quel certo genere di massaggiatrice. Lei si definiva però una studentessa che ha tempo perso per pagarsi gli studi e comunque soltanto per un ristretto circolo di persone fidate, forniva, oltre a massaggi più professionalmente detti, il genere di prestazioni che è inutile specificare. Era iscritta a lettere. E questo ovviamente a Tondi piaceva, anche se era parecchio che lei non dava un esame. Gli piaceva anche il nome, Maddalena, trovandolo esotico e peccaminoso. E ovviamente gli piaceva lei, il cui corpo, minuto e dominato da una liscia cascata di capelli neri e lunghissimi, aveva probabilmente poco di esotico, pur essendo molto peccaminoso. Gli era stata presentata dal direttore editoriale della Bianca, che abitava nel suo stesso palazzo e faceva parte del ristretto circolo di persone fidate. Prima ancora di presentargliela, il direttore editoriale gli aveva chiarito senza mezzi termini che genere di ragazza fosse, omettendo del tutto il lato studentessa e ironizzando su quello massaggiatrice. «Una escort», gli disse. Dal tono compiaciuto, quasi impostato, Tondi capì che il direttore editoriale adorava quella parola. Difatti la usava spesso, riempendosene la bocca con gusto, come fosse un termine magico o particolarmente raffinato. «Si è trasferita qui da poco, dovresti provarla». Tondi, imbarazzato, bofonchiò qualcosa che nemmeno lui comprese. «Per svago», insisté il direttore editoriale. Passarono diversi mesi prima che Tondi si concedesse il primo svago. Ma in quel lasso di tempo non la perse di vista. Spesso il direttore editoriale la invitava alle feste che teneva in casa e Tondi ebbe dunque modo di incontrarla più volte, di conoscerla, di apprezzarla al punto da stimolargli fantasie che riguardavano tanto il corpo quanto l'anima. Naturalmente fu lei a fare il primo passo. L'aveva sentito lamentarsi con un invitato, o forse con lo stesso padrone di casa. «Da qualche tempo, diceva Tondi, soffro di fastidiosi dolori. Niente di che, ma mi prendono quando sono seduto. Mi costringono a cambiare troppo spesso posizione mentre leggo. Mi tolgono concentrazione». Lei si era intromessa, parlandogli dei danni derivanti dalle cattive posture, dalla mancanza di moto, dei rimedi possibili. Lui non disse nulla, malgrado si fosse lamentato apposta di quei dolori. Maddalena restò fino al termine della serata, aspettando che gli altri se ne andassero. Tondi fece altrettanto e non appena lei si alzò per congedarsi e ringraziare il direttore editoriale, si alzò anche lui. Scesero insieme le scale e quando furono davanti alla porta di lei, due piani sotto, lui accettò l'invito a entrare. Parlarono a lungo prima che accadesse qualcosa e quando accadde fu come se fosse per caso, non per mestiere. Dopo lui le disse che non sapeva come comportarsi riguardo a cosa? Alla situazione, tutto. Cosa devo fare adesso? Lei aveva capito benissimo che quel come comportarsi voleva dire quanto. Mettiamola così, disse, per stavolta è successo. Quando ti verrà voglia di farlo capitare ancora, parleremo di soldi. Ne riparlarono, dando inizio a una strana relazione nella quale si mischiavano molte cose, forse perfino l'amore, anche se Tondi le chiese di non confidarle nulla di personale. Non voleva sapere da dove venisse, chi fossero i suoi genitori, se avesse fratelli o veri amanti o desideri o passioni. «Parliamo soltanto di me», le disse, «o di letteratura o della vita in generale. Di te però non voglio sapere nulla, non ti potrei pagare». Lei gli disse che era una stupidaggine, ma se così preferiva, così avrebbero fatto. E così fecero. Lui la chiamava, le chiedeva se poteva passare e passava. Il sesso era soltanto una parte e non di rado nemmeno la più importante. A volte cenavano insieme. Lei era un'ottima cuoca e parlavano di libri, come voleva lui, oppure guardavano un film o serie televisive. A notte fonda lui si alzava rifiutando di restare a dormire. C'era un limite che non voleva oltrepassare. Voleva che il loro rapporto fosse anche umano, anzi soprattutto umano. Un'amicizia che sapesse un po' di amore, sebbene l'apparenza del contratto di affari dovesse restare inviolata, l'asse portante dei loro incontri. Aveva bisogno di andarsene mettendo mano al portafoglio. Doveva sentire su di sé gli occhi di lei mentre lui posava le banconote da qualche parte nel posto più vicino, una sedia, il letto, il comodino. A volte, non sapendo nemmeno lui se per scherzo o imbarazzo o chissà per quale altra ragione, infilava il denaro tra le pagine del libro che lui o lei avevano letto quella sera. Leggere voleva dire fare sesso. Sesso come lo facevano loro. La cosa aveva cominciato a prendere forma fin dalla prima volta, dalla prima sera. Lei era andata in bagno e lui, rimasto seduto sul divano, aveva preso il libro infilato nella tasca della giacca. Portava sempre un libro con sé quando usciva di casa. Non importa dove andasse e perché, senza un libro gli era impossibile uscire. Non erano poche le volte in cui il libro restava nella tasca. Per lui era importante sapere che c'era. Che in caso di un tempo morto, di una fila alla posta, in banca, al supermercato o di una voglia improvvisa, voglia che poteva coglierlo anche mentre camminava, avesse qualcosa da leggere. Spesso si presentava in ritardo a un appuntamento proprio perché si era trattenuto in casa più del dovuto per decidere quale libro portare. Quella sera, prima di uscire per recarsi alla festa del direttore editoriale, la scelta era caduta su Bruges la morta. Lo estrasse dalla tasca e iniziò a leggere. Conosceva bene quel libro, tanto che avrebbe potuto recitare l'incipit e molte altre pagine a memoria. Non di meno gli piaceva contemplare le parole stampate, verificare che erano ancora lì, all'interno del libro. La certezza che non erano soltanto un'emanazione della sua mente lo confortava. Era come se, malgrado i rivolgimenti e le precarietà che affliggevano il mondo, qualcosa restasse al suo posto. In questo studio delle passioni abbiamo voluto comunque soprattutto evocare una città, la città come personaggio necessario che partecipa agli stati d'animo, consiglia, dissuade e spinge all'azione. Quando lei uscì dal bagno, rimase sulla soglia a osservarlo. Maddalena sapeva chi era Ottavio Tondi. Aveva anche assistito a una delle sue letture pubbliche. Anche lei, come molti altri, pensava che guardare Tondi leggere avesse un effetto taumaturgico, pacificante. Ora, quell'uomo magico stava leggendo soltanto per lei. Si godette il privilegio per qualche minuto, il tempo necessario affinché Tondi entrasse in uno stato di completa estraniazione. Dopodiché si avvicinò al divano. Non aveva più niente addosso, a parte una maglietta. Era scalza. Si mosse in silenzio. Lui non la sentì avvicinarsi. Si accorse della sua presenza soltanto quando lei gli posò le mani sulle cosce. Era in ginocchio davanti a lui e cominciò a slacciargli la cintura. «Puoi seguitare a leggere, se vuoi», gli disse. Lui seguitò a leggere. George Rodenbach scrive: «Le passioni, i legami tra i sessi fuori del matrimonio, sono sempre l'opera perversa, la via dell'inferno, il peccato del sesto e del nono comandamento». Aveva scoperto che leggere a quella maniera, gli piaceva moltissimo. Un'altra volta gli disse: «È diverso, ma ti piacerà anche questo, vedrai. Ti farò provare quello che prova la gente quando ti guarda leggere». Lui non capì con esattezza cosa lei avesse in mente, ma l'idea lo tentò. Lo spogliò e lo fece distendere sul lettino dei massaggi. Quindi si spogliò anche lei, prese il libro infilato nella tasca della giacca di lui e gli montò sopra, sedendosi all'altezza del sesso. Aprì il libro e iniziò a leggere. Lui la guardò. La vide sforzarsi di restare concentrata sulla pagina mentre il piacere aumentava. E quando gli sembrò che lei stesse per mollare il libro, le afferrò entrambe le cosce e affondò le dita nella sua carne. Le affondò con forza, artigliandola, facendole sentire le unghie affinché capisse che non doveva mollare. Lei strinse i denti e mollò. Quella volta lei gli lesse Ligeia di Poe nella traduzione di Giorgio Manganelli. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.